Gianni. Complimenti, dalla modulazione sembra che stai usando un TARM. Segnale di 7 con una radio di 3, ma perché non è basso il segnale, è bassa la modulazione, cioè non è che è bassa, è la ricezione, sembra che non stai uscendo con molti watt, capito? Adesso stai salendo, diciamo che è un segnale di 8 e una radio di 4, quasi 5, dai. Già sta girando bene, sta iniziando a girare bene, evidentemente, aspetta un attimino, evidentemente è una questione esclusivamente che deve riscaldare, ma non c'era nessun altro qua sul canale, no? Aspetta, qual è la differenza tra così e così? invece tu a manovrare quella radio? Ma non te li ha messi in automatico Fabrizio? No, no, negativo, la sto manovrando io adesso, così com'è. Si migliora, ma non devi essere tu a manovrare. Quello deve rimanere a 6K in ricezione. Quando schiacci la portante deve andare in automatico, il filtro deve cambiare in automatico. Perlomeno il mio era così. E adesso sono in ricezione, in trasmissione a 6K. Ma in automatico cambia. Quando schiacci la portante cambia il filtro. No, rimane sempre su 6K. No, deve cambiare. Deve cambiare, no, non deve funzionare così quella radio. C'è il menu che è da mettere in automatico. Lo sa Fabrizio come si fa, non so se si ricorda, ma l'ha fatto lui. L'ha fatto lui a me. C'è una funzione dove tu trasmetti, per dire, puoi trasmettere anche 2.7. Ricezione ricevere a 6, dipende dalla modulazione. Io per la mia ce l'avevo a 6, ma per la sigla tua devo andare a 2.7. Cioè va in automatico lui a seconda della modulazione che hai o la preimposti tu e dopodiché segue sempre con la modulazione? Tu imposti i filtri in ricezione a 6, ok, in M. Poi in trasmissione trovi, se vanno bene a 6, li metti, li imposti a 6, ma non che li imposti tu 6 e 6, no, li deve cambiare in automatico, cioè vedrai che commuta i filtri. Quindi quando tu schiacci la portante, che è il PTT, dal consenso al filtro, a relè deve cambiare in automatico, non devi essere tu a metterlo. Il mio era così, eh. Il mio era così, in automatico cambiava il filtro, non manualmente. Tu ancora c'hai il sistema manuale, va impostato in automatico. Adesso ho capito, cioè lui a seconda di come sente la tua voce, ora normale, e a seconda di come sente la tua voce si commuta e va in automatico, ti mette il filtro più adatto per la trasmissione. No, tu lo metti in base alla tua voce, lo imposti tu e lui lo prende in automatico, e lo memorizza in automatico, rimane quello il filtro. Se tu lo imposti manualmente non ha nessun significato. Io non ho capito, scusa, però mi stai dicendo che lo deve impostare lui e dopodiché io lo lascio impostato oppure lo imposto io e rimane impostato? Tu lo imposti, in ricezione vai a 6 kg se ricevi bene, se non ricevi bene lo metti a 2.7, ok, in ricezione. Poi ti provi la trasmissione, provi i filtri, prima a 6 poi a 2.7. Quello che va bene in trasmissione non devi essere tu a metterlo, tu glielo imposti, lui lo memorizza e lo cambia dal momento in cui tu pigi il DTT, questo era il mio, così faceva il mio. Guarda, adesso funziona così, che... aspetta, tu come mi stai sentendo adesso? Come ti ascoltavo sempre. Allora, adesso sto ricevendo a 12K e trasmettendo a 6K. A 12K, a 1.2, com'è che la modulazione la ricevi rispetto agli altri filtri? Provali, quella che secondo te ricevi meglio, la devi impostare nel menu, capito? La imposti nel menu, dopodiché le dai la memoria dei filtri e lui li prende in automatico quando tu schiacci la portante. Eia, è così infatti, così che sto facendo. E così adesso sto ricevendo a 12K, che è la modulazione più aperta in ricezione, e c'è una bella modulazione corposa, se no ti diventa la voce strana. E dopodiché come schiaccio il PTT sto trasmettendo a 6K, però mi devi dire tu adesso come sto uscendo. Per me va bene così, ma devi sentirti anche tu. Soprattutto il ricevitore, se il ricevitore per te va bene a 12, lo lasci stare a 12 sul ricevitore e sul trasmettitore metti a 6K, capito? Senti a KP2 come lo ascolti, avanti KP. Con Giulio e con Massimiliano, beh, c'era Marco Pongo, la Sasa, a medico antico, è quello a Massimiliano Moro, dipende dai punti dove magari si incanale il segnale. Massimiliano l'ho sentito anch'io quando è entrato con Giulia, però arrivava molto ma molto male, non male, di più, era 5-9, aveva dei rumori strani sotto, alternata, altri rumori, una durazione bruttissima. Io non sono entrato perché ho visto che i controlli li ha dati Giulio, comunque io lo stavo ascoltando molto molto male, perché il segnale Massimiliano qua è 5-9+20. La radio sempre fortissima, non so cosa stavo usando, ma stava arrivando molto basso e molto male di radio, capito? Comunque, va bene. No, Antonio c'è una buona posizione, perché davanti a te qui dovresti ascoltare, se non come me, quasi come me, capito? Perché c'è un'ottima posizione. Tu qua sei 5-9+20, la radio è 5 perfetta, un po' bassina rispetto agli altri. Sono molto soddisfatto, poi realmente non la sto sfruttando al meglio, perché questa qua è una radio che non, come tutti gli apparati radioamatoriali, che non devono andare in AM, né tantomeno su frequenze di questo tipo, ma non è tanto la frequenza, è proprio l'AM che la mortifica. Sicuramente in banda radioamatoriale va decisamente meglio, cioè in banda laterale, intendevo. Ma io l'ho versata e sono stato soddisfatto moltissimo di quella radio, perché in banda laterale io non l'ho più usata dai tempi che furono, quindi ho avuto due, di cui quella che c'è tu è la mia, praticamente, per farti capire, non te l'ho mai detto, ma quindi ho dato due a Massimiliano, di cui una me la sono ripresa e una l'ha venduta a te, capito? Quindi anche quella lì era la mia. Perciò e quindi ne avevo due, e siccome non me ne facevo niente, allora una l'ho volata a Massimiliano e Massimiliano l'ho volata a te, capito? Quindi per capirci, in ogni caso va molto bene in banda laterale, tu trovi cosa devi fare, quella radio devi mettere in banda laterale, e non devi usare un baracchino buono, o usi 7-2-6, o usa qualche altra cosa che c'hai, ma quella in AM non serve a niente, sprecata. Quella deve andare in banda laterale, quando ti decidi di mettere l'antenna, ti accorgerai cosa fa quella radio. La mia trasmetteva un 150 watt pieni, ma pieni però, più del 7400, modulazione da paura. Da paura perché gli avevo abbinato il MC60. Segnate proprio come deve trasmettere in banda laterale, ed è una radio che funziona molto molto bene, ma in AM chiaramente è un po' così, capito? Non è che puoi perfezionarla molto, la perfezioni molto molto meglio in banda laterale. Provo un attimino a passare in USB, che questa qua non l'avevo ancora sentita in laterale da quando me l'ha riallineata, vedi un attimino. Guarda un attimino come sono, hola hola hola, 1 2 3 1 2 3, prova 27 0 15, guarda un attimino come sono, hola 1 2 3 1 2 3, prova. Decimale sono 00, a te ti sento benissimo, non so se aspetta un attimino la trasmissione, no? Aspetta che c'ho qualcosa di spostato. Adesso è tutto a posto. Aspetta un attimino, mi sta arrivando la chiamata. No, qui è Valla Grande, pulita qui, esce benissimo. Quindi è chiaro. sei convinto che la sto vendendo la radio tu? Io poi già me ne rido quando me lo la portate, poi non è radio da vendere questa qua, lo dico così, e capito, questa è una signora radio azzeccata, meglio del 440 che avevo. In processore si usa in banda laterale o no? Filtri sbagliati. Io ci avevo 2.7 in trasmissione, in ricezione sì. Ma comando adesso sia cambiato, che gli ho messo un po' più di microgain. No, più microgain ci metti più intermodo, vabbè, ma questo c'ho. Questo è la 27, capito? Mi ha provato con l'antenna sua in 40 metri, 20 metri, per vedere se la modulazione cambia, proprio qua, con la verticale così, insomma, roba. Ma dai, torniamo in AM. Capito, mi hai. Quella radio c'è tu, era la mia. Conosco Massimiliano, che cosa gli ha fatto, cosa gli ha fatto. Io me la sono fatta per me, tramite sangue, mi ha dato un input, quello di Alghero, e me l'ho regolato, aveva 150 watt modulati in AM, però la modulazione, il sistema di modulazione con i filtri in ingresso e in uscita, me li ha messi, me li ha fatti mettere Franco. Mi sono ritrovato un antennino UHF, deve essere, che esce fuori col PL, però è a 90 gradi ed è un antennino di 40 centimetri. Come si usa questo qua? Attaccato direttamente dietro. Quella si che piega, c'è l'attacco che mette la PL. Quella per il ricevitore. Quella si attacca al ricevitore dietro. Quindi non è da trasmettere, non è da trasmissione. No, su, però si deve fare anche trasmissione, bisogna leggere caratteristiche. Bisogna leggere caratteristiche, se è massa, se prende la massa dalla radio, cosa fa, cosa non fa blu. Io di solito con le antenne lì ce l'ho addirittura una anch'io, però la usavo sul ricevitore, oppure la attaccavo al VHF per ricevere. Sentito in 145? No, ce l'ho spento, chi è? Un bambino di nuovo, vai. Quella roba di cosa c'ho io, capito? Di Raffaele, Alfred Whisky, tutto, antenne, pali, c'ho tutto io. Me l'ho fatto avere Antonello, quello di Fugiaro. E poi c'è tutta la roba di cosa di Mario. C'ho tutto io in garage. Ti hai sentito di nuovo una voce di un bambino che diceva come stai? No, era spento. Non so, no, io ho tutta la roba di Raffaele, un Bauer, la roba di Mario. C'ho tutto in garage, la radio ce li ho qua dentro l'armadio. Attenzione America del Nord, se mi ascolti, attenzione America del Nord. Luca. Buonasera, ma così ho accesso 5 minuti e niente da, ho mangiato come un maiale stasera. E cosa ti sei mangiato? Sei in compagnia mia di Claudio e di Gianni Capri 2. Cosa ti sei mangiato, perché? Anche di Ravanca? No, tu sei mangiato un bel piattozzo grande di tortiglioni al sugo con ragù, mozzarella e wurstel. Mamma, una bomba. Cazzo, il cinghiale non ce l'hai messo? Quasi, ci mancava il cinghiale. Mamma mia, poi sono avuto una piatta di birra, mezzo litro di birra. Una banana mi sono mangiato, 10 noci. E più tardi qualche, boh, vediamo un po', là c'è qualche merendia così, no? Questo per non rimanere a stomaco vuoto. Avanti, Gianni Capri 2. Buonasera Luca, salutori, ben sentito. Come se non mi sente? Boh, ripeto. Ciao. Sì, sta parlando. Non lo sento. Mangia, io l'ho spesa, adesso ho mollato. Ah, sì, ecco. Mi alzavo anche di notte, però ragazzo, hai capito, vuol dire che c'è la salute, tu mi prendi a tu. Ma se continua così la salute se ne va. Innanzitutto sono finalmente contento che hai imparato a mangiarsene le banane, finalmente. E dopodiché ti dico, Luca, tu immaginati che si può vivere per 2 mesi mangiando solamente 4 noci al giorno. Tu te ne sei mangiato dentro e dopo ti sei mangiato, diventa l'anima delle morti, figurati quanto in più hai mangiato. Ma tanto le noci, quelle, guarda, come batte lo spin, sono care, 6 euro, quasi 7 euro il chilo, ma cavolo, guarda, buonissime, dalla California, buone. Le sono preso tra ieri, 3 etti mi sa, le ho mangiato una parte ieri e oggi le ho finite, ma se c'erano ancora me le mangiavo, ma purtroppo sono finite. Vabbè, ne ho preso poco io perché so, mi conosco, perciò non meglio che siano finite, dai, sono guai. E niente, vabbè, tanto, devo la smessa di fumare, va. Ci spendo più soldi per mangiare, sono sincero, molti di più, però diciamo è molto meglio della sigaretta. Scappa, però ricordati che sono meglio con le sarde. Tu le noci appena raccolte le hai viste, lo sai come sono? Verdi. No, verde è la parte esteriore, però quando sono mature si aprono da sole e sono lieti e bidi dal coso, da come era la cabossa, così si chiama, che lo strato che divide la buccia, che è quella verde che dici tu, dal nocciolo vero e proprio, ed è sono nere. Quelle che hai comprato tu della California, che colore erano? Marroncine, ma un marroncino chiaro. Marroncino chiaro, pulita, perché le sbiancano con la parecchina. Tu immaginati la merda che ti mangi, perché un po' se l'assorbe dentro. Ora sono buone. E vabbè, buone, però se trovi quelle sarde sei meglio, sono più naturali ed evitano di essere state lavate con merda, capito? E vabbè, se pensiamo, quella così, quell'altra così, quell'altra così, e vabbè, tanto. Come vedete, non muoio di rampi. Va bene. Però mi fanno mangiare, boh, io sono allucinato. Ieri, per esempio, mi hanno invitato a cena, questa mia amica, mi ha fatto la pasta, le pennette al salmone e panna. Mi sono mangiato 2 piatti, ma era uno spettacolo. Sono una chef proprio. Tu immaginati, però, a proposito di quello che stavo dicendo, poi passiamo il microfono a Gianni Capri 2, che dalla mattina presto, quando ci alziamo, noi durante l'arco della giornata veniamo a contatto con tutta una serie di agenti tumorali, soprattutto per quanto riguarda le cose che ingeriamo. Tu immaginati che solamente nel dentifricio ci sono tutta una serie di componenti che li utilizzano anche come detersivi per lavare, per smacchiare i garage. E c'è un componente particolare che si chiama schiumogeno, che è presente nel dentifricio ed è altamente tumorale quello lì. Siamo anche oggi, stavo seguendo il telegiornale, stavo ha parlato che anche dei quesiti avvariati che vendono e tanto non so quanto se ne compriamo di roba scaduta di queste cose, perché la gente non è più sana. E io ieri sera ho comprato per al discount, c'è la macelleria, però lui ha confezionato carne di porcettone, l'ho comprata su. La mia moglie portava le prezzemolo nella pentola, me l'ha fatta, sì, ero qui in radio, un profumo si sentiva, però era radio che stava. Beh, l'ho mangiata, non ci aveva sapore di niente, ho detto io, mi avevo innaffatti la carne, vado da un pastore che ci ha fatto lo buono, me l'ha fatto macellare lì, me la preparo, me la porto, me la metto in friggere, così mangio roba. Non si sa neanche da dove arriva, riprendi Luca. Vabbè, comunque, sai cos'è il problema? Che stiamo a pensare, quello fa male, quell'altro fa male, e tutto fa male, anche quando tu ci fuori, no? Aperto, e tutto quello che ti respiri, gli scarici della macchina, delle moto, dei mezzi, tutto ti fa male. Guardiamo, quello che ci fa male, alla fine non siamo più di casa, dobbiamo mangiare roba naturale. Siamo tutti di passaggio, non abitami. Tanto mi, o come dei droni, o come dei lampi. Io conosco gente, cioè, anche parenti, no? Sono molti così, non fumavano, non bevevo, molti così, così all'improvviso. Oppure magari sono molti di tumore, che non hanno mai fumato, non hanno mai avuto nulla, così molti. Alla fine come mangiare tutto quello che si trova, tanto muri devi, Sì, ma come dicevano i latini, morte certa, ora incerta. Allora, l'unica cosa certa della vita è la morte, tutti dobbiamo morire. Il problema incerto è esclusivamente l'ora, cioè il momento. Quindi là dove puoi cerchi di diminuire tutta una serie di veleni che ti stai buttando dentro ogni giorno. Tu hai detto bene, esci e ci sono gli scarichi della macchina, poi ci sono tutta una serie di cose che minano la tua salute, dove puoi cerchi di correggerla. Ricordati che se mangi bene, se respiri bene, caghi bene e trombi bene, vivi una vita da fasciano. Ehi, vabbè, tutto quello. Allora, prendiamo l'esempio. Prendiamo l'esempio del tabacco che c'era 20 anni fa, 30 anni fa, quello di adesso, no? Un esempio, il tabacco di 30 anni fa, a quanto ho sentito dire, no? Siccome tu hai 2 anni più di me, però io ho parlato con persone che hanno fumato, ma a differenza di quello che c'è adesso, quello di 20 anni fa era 20 anni, 30 anni fa era più sano, no? Questo lo sai. Quello che c'è adesso non è più sano, tu. Ci mettono una roba chimica in mezzo, o il tabacco, roba bondezza, prima no. O non sei d'accordo? Certo che sono d'accordo, i disarmanti che c'erano, che ci sono adesso, non c'erano 20 anni fa, come l'inquinamento che c'è adesso atmosferico, le piogge acide non c'erano 20 anni fa, come le scie chimiche che vedi ogni tanto, quelle che tracciano gli aerei americani, non c'erano 20 anni fa. Sicuramente, per quello che dico, da dove possiamo è meglio sempre mettersi nella condizione di introdurre nel corpo meno merda possibile. È vero che i medicinali che ci sono, che c'erano 20 anni, o meglio che ci sono adesso, non c'erano 20 anni fa, ma infatti alcuni dicono complottismo, qualcuno che soffre di complottismo dice che sono le case farmaceutiche che cercano, che sono in comune accordo con le case di produzione del cibo, in modo tale che uno ti fa ammalare e l'altro ti cura, capito? Sì, ma infatti, ma per farti capire, se voglio guardare quello fa male, tutto fa male. Se ci facciamo un giro di conti, tu mi hai detto anche da poco, l'acqua San Martino, no? Se ti ricordi bene, l'acqua stavi parlando, infatti a mamma glielo ho detto, passa così, e lì la mia riporta, quella me ne frega, ma non mi fa male, ma una volta grazie, ma mia madre sono per me di quell'acqua, tu non ne hai idea, un bel. guarda nelle acque, devi guardare sempre l'etichetta e devi leggere il residuo fisso. Tu immaginati che un'acqua normale c'ha intorno ai 100 e qualcosa di residuo fisso, ed è già un'acqua abbastanza pesante. A San Martino c'ha 1000 e non so quanto, è una mondetta quell'acqua. Dico, perché oggi alcuni punti l'acqua non... domenica 2 mi sa che piove, che palle, piove domenica e lunedì, poi martedì nuvoloso, mercoledì idem, giovedì sole, a spaccare tutto. Tu conto, io pesavo nel 2008 circa 58 kg, 57, ne peso quasi adesso che siamo nel 2014, scusa, quasi 80, c'è la differenza? E tu, io ne pesavo 67, tipo 4 anni fa, 67 kg. Poi mi sono un attimino seduto e vai che ce n'è, e sono arrivato a 78, ho toccato anche gli 80. Però io ho più che altro retenzione idrica perché mangio molto salato, mangio molte pizze, questa mondetta qua che non fa esattamente bene. Anch'io salato già mi do da fare, ma io guarda col fritto ci metterei la firma ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Uova con le cipolle, io le amo, credimi. Poi fritti quasi tutti. Per esempio oggi ho fatto a pranzo le combatte dello spinato, buone, quelle pizzette sono soggiate, crude, no? Da cucinare, quelle, ma come si chiamano? Quelle, ma non viene il nome, sono ripiene, no? C'è mozzarella, sugo, lento, quelle che fanno anche in coso, in pasticceria, che sono anche piccole, però queste qua sono chiuse, no? Che tu le cucini e poi le si gonfiano belle. E praticamente, vabbè, ho messo il gas, il cipollo troppo alto, convinto, vai, le volevo bene, stavo salendo, no? Già, stiamo prendendo colori, ma sotto, sono come carbonizzate. Evidentemente non c'è il forno ventilato, c'è il forno che scalda dal basso, che va bene per fare le torte, ma non queste cose, perché le brucia, o a meno che non lo metti a fuoco un bel lento. No, l'Eurospin guarda, si compra davvero bene, io compro l'Eurospin oppure alla Lidl, e ha davvero degli ottimi prodotti, anche perché molte sono sottomarche e poi vai a vedere, sono prodotte negli stessi punti dove producono quelli di marca. Ma infatti, no, il forno l'ho messo tutta male tanto, perché senti, cioè, intanto davo un'occhiata, no, ma questa cosa non fa scaldare, ma poi alla fine ho notato che la carta a forno si è carbonizzata anche lì, ma è ovvio che è bruciato, ma comunque sono riuscito a cucinarle, ne ho levato la parte di sotto che era bruciata, ma erano buone, le ho pagate, una di 50, ce ne sono 5 dentro, ma veramente buona la tua. 1,55 già va bene. Beh, Luca Pagliuca, mi sa che si è fatto tardi, eh. Vado a far finta di studiare, che devo finire una cosa per motivi di lavoro. Fai da bravo, buon 144, pigliati nel culo e di che sei caduto, saltando però, eh. Vai, diciamo che è buono, ciao, buona notte a domani. Ciao compa, ciao ciao. E una buona notte a tutti gli ascoltoni, a quasi tutti, meno che a te, che so che stai ascoltando. Anche da parte qui, ciao ciao. Pure cibo. Ciao. Ciao ciao.